La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Con l'articolo 97 si passa alla parte della Costituzione che riguarda la pubblica amministrazione e l'articolo 97 pone in generale il principio di legalità, cioè che tutta l'attività della pubblica amministrazione deve essere organizzata secondo disposizioni di legge, in maniera che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità. Ovviamente questo articolo sa ancora di illuminismo, sa ancora di rivoluzione francese, nel senso di indicare con precisione la cesura storica rispetto a un sistema monarchico in cui i pubblici dipendenti erano funzionari del re e quindi rispondevano al re. Invece l'organizzazione della pubblica amministrazione nello Stato costituzionale è basata sulla legge e quindi è la legge a indicare finalità, competenze e organizzazione e soprattutto la legge che deve garantire che tutta l'attività amministrativa sia finalizzata a imparzialità e buon andamento. In fondo è un corollario di ciò che viene affermato nell'articolo 3 della Costituzione. Siamo tutti uguali avanti alla legge e quindi a tutti bisogna applicare la stessa legge. Oggi questa ci sembra una conquista molto semplice e dovuta, invece sappiamo che per secoli sono esistite legislazioni differenti, nel senso che ciascuna classe, ciascun corpo sociale aveva la sua legge. I nobili, il clero, i militari. Ecco allora che sono per secoli esistite leggi differenziate. Questo nello Stato costituzionale non è più possibile. La legge è uguale per tutti, la legge si applica a tutti e quindi la pubblica amministrazione applica in maniera imparziale la legge per perseguire il buon andamento, cioè il buon funzionamento della macchina dello Stato. L'ultimo comma pone chiaramente la regola del concorso, che è una regola logicamente conseguenziale. Infatti, agli impieghi delle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. È interessante come, invece, negli anni la regola del concorso sia stata applicata in maniera saltuaria dalle pubbliche amministrazioni, soprattutto fino agli anni 70 e 80 del secolo scorso. L'escamotage che era stato trovato da molte pubbliche amministrazioni era quella del cosiddetto concorso interno riservato, cioè cittadini venivano assunti in maniera precaria con dei contratti a tempo, dopodiché veniva bandito un concorso solo per chi aveva un determinato numero di anni di precariato già in quell'amministrazione. Era un modo praticamente per eludere l'obbligo del pubblico concorso. La Corte Costituzionale è intervenuta molto duramente su questo punto e quindi ha ammesso i concorsi riservati solo in maniera parziale. Oggi tutti devono applicare la regola del pubblico concorso perché ovviamente è garanzia di piena imparzialità.